MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet compie 15 anni e celebra con gusto. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70% e i Pizza Days. Dal 19 al 22 giugno, dalle 18, i grandi maestri pizzaioli del territorio firmeranno pizze d'autore da non perdere. Guest star per l'inaugurazione Ciccio Vitiello. Ti aspettiamo! MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet compie 15 anni e celebra con gusto. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70% e i Pizza Days. Dal 19 al 22 giugno, dalle 18, i grandi maestri pizzaioli del territorio firmeranno pizze d'autore da non perdere. Guest star per l'inaugurazione Ciccio Vitiello. Ti aspettiamo! Stai ascoltando Runtime Radio, la radio geek. Sono fesserie, ma c'è ancora un bel cavillo, William Shatner, non c'è ancora un coccodrillo, non saranno rose e fiori, e li state ad ascoltare, ma mandateli a zappare! Ah, belli di casa, bentornati qua su runtimeradio.it, dove come tutti i mercoledì, in realtà non è vero, dipende solo se ci va, se siamo svegliati bene, se abbiamo mangiato o qualsiasi altro motivo, siamo qui su Popcorn, runtimeradio.it, sono passate le 9 appunto, e con me c'è Marco Gualdi. Ma anche io tutte le volte che mi va vengo qua praticamente, quindi sì, un po'. Perché lo chiamiamo tutte le volte che ci va il programma a sto punto? Abbiamo cambiato già 3-4 volte il nome. Hai ragione, lo so, potremmo farne un altro. Perché, perché cambiare nome quando possiamo sdoppiare i programmi? Intanto siamo sempre noi, che cazzo ci frega? Infatti, che poi tra l'altro, cioè, di tantissime volte mi è capitato di sentire in radio, no? Quando si passano da conduttore a conduttore, che fanno sempre il programma musicale. Però non si sa perché il programma improvvisamente si chiama in un'altra maniera, ma è sempre la stessa cosa. E vabbè, ma anche noi facciamo queste cose. Diamo il benvenuto a Walter Sbanos. Buonasera, ma spiegami, Pizzi, questo oggi c'è questo piglio da cronista sportivo, ma ci sarà qualche novità? Perché lo fai? No, sto testando la mia voce, sto testando tante cose, adesso devo... Hai fatto l'operazione? Ho fatto l'operazione, come Bernabé, è la stessa cosa. La dietrologia, scusa, non la dietrologia, ma la dietrologia ci dice che ci sentiamo un po' malino. Chi è che è la dietrologia? Ci sentiamo malino, però non è che ci sentono malino, quindi diciamo è un'autodiagnosi, dici, vuoi sapere se ci sentiamo? Non lo so, ci dicono così. Definiscano meglio il un po' malino, io intanto sto registrando per sicurezza, così intanto... Vabbè, comunque. Poi facciamo la composizione per la versione podcast. Infatti, allora mettiamo una basina normale, forse siamo un po' sbragosi, aspettate che controllo, voi parlate. Che malino è. Parliamo. Ma Marco, parliamo. Senti, ma insomma, visto che tempaccio oggi? Non lo so, ero troppo impegnato a nascondermi perché questo, cioè, sui tuoni, lampi mi fanno paura, sai, soprattutto quando fanno rumore. L'acqua è tu hai sentito che ha detto Lollobrigida, l'acqua è pericolosa. È pericolosissima. Può morire, cioè. Pensa che tutte quelle affermazioni che ha fatto Lollobrigida, il fatto che l'acqua possa fare male è l'unica cosa vera. Comunque avevano ragione, ci sentivano male perché stavamo uscendo con un ipersegnale praticamente. L'ipersegnale, quello mega fotonico. Sì, sì, stavamo 20 decibel oltre la scala del rosso, quindi va bene. Ragazzi, quindi praticamente flattava tutto. Intanto ci ha raggiunto Domenico sulla nostra chat, diretta da Antime Radio, che dice: il vostro volume sembra basso, ma adesso sembra meglio? Allora. E soprattutto, il vostro di tutti o il vostro di chi? Infatti, dici qual è il volume, si sente troppo poco rispetto a... Il main volume. Ragazzi, purtroppo, come diceva Walter, c'è una novità. La novità è il nuovo mixer, dobbiamo un po' addomesticarlo. Mentre che per anni abbiamo sempre utilizzato la stessa strumentazione che, insomma, tutto sommato ci ha portato bene. Ragazzi, quindi dateci dei feedback e piano piano sistemeremo. Allora, Michele usa un'indicazione estremamente tecnica per dire che sia io che Marco ci sentiamo sbragati. Adesso dovrebbero essere tornati normali. Dovremmo essere disbragati. Dovreste essere disbragati, quindi insomma... Fatemi sapere. Nel frattempo noi proviamo ad andare avanti anche con il programma. Volevo dire, poi tra l'altro, Walter Sbano in collegamento satellitare dall'altra parte della strada, che insomma, esatto, praticamente abbiamo tirato un cavo. Esatto. E vabbè, e però Walter non sei solo. Non mi potevo esimere dal portarvi qui questa sera in diretta il vincitore o il campione, questo non l'ho ancora capito. Il vincitore. Campione vincitore della seconda edizione del Festival della Canzone Artificiale di Dante Radio. Dillo da solo, com'è che ti chiami? Cisco U2. Ragazzi, amica è da tutti. Infatti io mi aspettavo che Pizzi facesse partire l'applausino, però qua mi pare di capire che... Non è pronto, al massimo devo fare le pernacchie, quelle sono pronte. Sì. No, sto smachinando in altre cose. No, fa cazzi suoi, adesso c'ho il giochino nuovo. Infatti, ma perché abbiamo fatto questa puntata quando potevamo fare una puntata inedita di un nuovo podcast che si chiama Mixer? Con Minoli. Infatti, non lo potevamo chiamare Mixer perché sennò se la prendeva Minoli. Ma esatto. Faccio una canzone la prossima. Dai, noi canzoni alla go-go. Mixer X, come potresti chiamarla? Mixer X. Mixer X. Bello, bravo. Guardi, bravo. Ma io, sai. Io sono un titolista nato. Sto sistemando intanto in tempo reale. Dovrebbe, insomma, più o meno essere tutto abbastanza a posto. Volevo dire, sì, come diceva Walter, campione perché è giusto, perché in realtà il nostro amico Cisco non ha solo vinto, nel senso, ha vinto proprio, è il vincitore assoluto, quindi è quello che vince il festival con la somma sia della giuria popolare che della giuria di qualità, insomma. Quindi perché ha messo d'accordo tutti diciamolo. Tutti. Devo dire che le tre canzoni che sono poi si sono battagliate molto, alla fine erano molto equiparate sia dal punto di vista del voto popolare che dal punto di vista della giuria. Ovviamente poi il voto popolare era più sbilanciato magari verso una cosa, ma grazie a Dio appunto quest'anno abbiamo compensato questa cosa, perché sapete, può succedere, no? Che ognuno crea i propri gruppi d'ascolto, ha i propri fan, i propri amici, dice andate a votare, e quindi arrivavano tantissimi voti. Che quando sei a Sanremo è normale, lì vabbè, esatto. Si fa sui grandi numeri, pazienza. Il problema però è che arrivavano più voti di quelli che avevano ascoltato la puntata, cioè questa è un po' la cosa. Vabbè, ma noi la matematica ce l'abbiamo, noi abbiamo i calcolatori quantistici, no? Non abbiamo usato un calcolatore quantistico, abbiamo calcolato la probabilità che quel voto fosse per l'uno o per l'altro, non abbiamo usato il dato grezzo, quindi insomma. Comunque Simone, mai come questa volta il termine grazie a Dio, tu non sai quanto cavolo è vicino alla realtà, perché qui poi a tempo debito lo scopriremo, Cisco non è venuto a mani vuote, ci ha portato il suo nuovo inedito, il suo nuovo singolo. Sì, allora ragazzi, noi non facciamo sentire la canzone che ha vinto il festival, che l'abbiamo già sentita due volte, poi ci fa schifo, non vogliamo più sentirla. No, non è vero. Secondo me era veramente una delle due canzoni più belle, al di là di tutto. Poi dopo, ecco, vi do appuntamento. A parte, scusami, ma erano tutte belle. Erano tutte belle, uguali, ogni figlio, pezze core, come si dice. Però in generale, comunque, vi do appuntamento a domani sera alle ore 21, sempre qui su rantemradio.it, dove faremo un episodio speciale dedicato all'analisi complessiva di quella che è stata questa esperienza della seconda edizione del Festival della Canzone Artificiale. E invece, poi, ovviamente, questa sera siamo qui con il vincitore. Quindi è come un po' questa è la puntata come Domenica In che si porta il vincitore del Festival per però non ci abbiamo una canzone del festival, ci abbiamo una canzone inedita, tra l'altro pregna. Del suo nuovo album. Pregna. Sì, viva la pregna. Non so se la vuole introdurre lui la canzone. Introduco, è una canzone che è molto attuale, direi. Parla di, sì, del nostro Papa che purtroppo... Permettimi di dire che potrebbe in qualche modo precorrere anche i tempi, potrebbe essere, sai, quel brano che prevede il futuro, potrebbe essere quasi un episodio dei Simpson. Eh sì. Però aggiungo una cosa, che il ritornello rimarrà in testa. Sì, sì, non, ma non solo il ritornello. Comunque, voglio dire una cosa, che indipendentemente da poi questo, quella cosa che dice la canzone che adesso ascolterete, quindi magari la precognizione che c'è dietro... C'è sempre William Shatner, ragazzi, c'è sempre lui. Lui li sta a seppellire tutti, uno dopo l'altro. Si parla di Star Trek, che c'entra Papa Francesco, che ha fatto parte della no, crew? No. No, però lui, sai che dopo aver seppellito tutti quelli di Star Trek... Secondo me, negli anni 60-70... Papa Francesco a casa sua Star Trek se lo vedeva, quindi non lo so se tutto c'era, sommato c'era la dittatura negli anni 70 in Argentina, non lo so. Guarda che lui lo chiamavano Francescan all'epoca, Ah, Francescan. Sì. Questa un po' di un tasso. Io direi andare, c'era freddura in questa. Vogliamo sentire la canzone? La sentiamo. Facciamola lanciare all'ospite, però diamo tempo agli ascoltatori di arrivare, perché sono che ne so, eri tu che Lucas e Mago Slow, però insomma magari vogliamo proprio bruciare subito. No, io perché tu l'hai citata e allora pensavo che eri tu la facciamo annunciare dopo direttamente all'ospite. Ce l'abbiamo qui, mi sembra giusto. Ma lui lancia. Facciamo prima un po' l'ospite, scusate. Com'è? È il titolo, è il ritornello, sì. Non ci può spoilerare. No, non ci può spoilerare. Lo possiamo dire poi dopo. Infatti non lo diciamo. Si chiama canzone. Questa canzone si chiama canzone. Adesso la lanciamo. Che purtroppo sta morendo. Canzone no, la ha spoilerato. No, ha spoilerato. Dai. Il titolo questo. Ok. Però adesso Cisco U2 lo sentiamo più basso. Adesso sei perfetto. Stava bevendo birra alle spalle, esatto, di Vivaldi. Esatto. Sì, perché dobbiamo ringraziare il nostro sponsor Peroni che ci ha offerto una media, una 66 per questa serata. Insomma, una 66 in due. Ma tra l'altro, Cisco, parlaci un po' di te. Innanzitutto, come mai e come sei venuto a conoscenza del festival e perché hai deciso di partecipare? Tra l'altro. Alla seconda, perché è la seconda volta che partecipi. E poi la domanda fondamentale, cioè, chi te l'ha fatto fa? Esatto, perché tu devi capire che non c'ho un cavolo da fare durante la giornata, ho detto vabbè, perdiamo tempo così. Infatti ci ho messo 5 minuti per fare una canzone. No, non è vero, dai. No, è elaborata, sì. Fingi che c'è uno studio. Allora, quella che ha vinto il festival sarà stato un lavoro di mesi, no? Generazioni. Ero minorenne quando ho iniziato. C'avevo i capelli. Sì, esatto. Infatti anche quella di adesso, la scritta quando era minorenne, lo dico perché così non è perseguibile e oltretutto ormai è caduto, anche fosse il reato è caduto in prescrizione. Eh sì, poi io, ragazzi, la va scritta, oramai non è che ci possiamo fare niente, insomma, no. D'altra parte mica è colpa nostra se i papi possono morire, cioè ha morto un papa, se ne fa un altro. Sì, certo, morì durante il giubileo è un po' così, insomma, un rottore dei coglioni anche per l'organizzazione. Eh sì, perché così devono fare due feste insieme, capito? Cioè che palle. Sebbene c'è un amico... È bello farle due volte in due anni separati, così c'è il doppio del pellegrinaggio. Vabbè, ma quindi... diciamo che negli cassi raddoppiati. Sta un nuovo cavò, perché se succede, so soldi. Dobbiamo anche dire che con sto papa, diciamoci la verità, insomma, stanno a fan casino negli ultimi anni. Prima ce ne sta uno, poi ce ne stanno due, poi il papa cattivo... Si dimette, poi dopo il papa buono, poi quell'altro muore, insomma, stanno a fare un po' di casino. Però io farei notare che giustamente quando Papa Francesco ha detto che quello che stava succedendo a Gaza era un genocidio, insomma, diciamo che si è ammalato improvvisamente. Eh sì, e deve essere stato Netanyahu che gli ha offerto un tè. Eh sì, probabilmente, ma magari non proprio Netanyahu, però... No, non lui in particolare, ma uno in via. Una suora del Mossad. Uno in visita è passato da quelle parti e ha detto: oh, le volevamo portare queste spezie orientali. Esatto. E lui: ah, piace, buone spezie. Io non lo so fare l'argentino. Guardi, tu fai l'argentino. Sono molto buone queste spezie. Sono queste Veneto, però. Di Veneto. Vabbè, ma tanto è uguale. È più o meno la stessa cosa. Ci sta perché tanto argentino su tre è veneto, quindi va bene. Gli altri due sono tedeschi, anzi nazisti, però vabbè, cioè, vabbè, lasciamo stare. Infatti si dice venentino, venentino. Venentino. Mazza, questa è una battuta tosta. Sì, mamma. C'è gente che ne ride. Allora, secondo me questa andrebbe registrata, perché se no te la fregano. Sì, è vero. Copyrightata. Sì. Depositarla alla SIAE. Va bene, sto prendendo il dominio. Il dominio è un'attestazione di dominanza. Proprietà intellettuale, dai. Cioè. Ma sì. Vabbè, comunque, insomma, sì, Scola, io so che poi lui perché è molto modesto, no? Non ci vuole dire. Però io, per esempio, so che lui adesso ovviamente ha abbracciato la carriera da cantante solista, eccetera, ma io so che nasce batterista. Quello sì, quella è la mia cosa vera, guarda. sì, ho iniziato con la batteria un bel po' di anni fa, sì. Quindi comunque un musicista vero, ci tengo a dirlo. Oddio. Perché no, perché qua dentro, insomma, è un evento raro, ecco. Soprattutto al festival. Infatti, ora che ci penso, potrebbe essere causa di squalifica come un musicista vero. Non si fanno. Però voglio fare una domanda a questo punto: come musicista vero, hai mai vinto qualcosa? No. Quindi, cioè, questo è una tristezza. No, una volta sì, guarda. Ah, ok, vabbè. Una volta sì. A Mentana. Vabbè, facciamola diventare un po' più importante questa cosa. Ha vinto e l'ha premiato Mentana. Premiato da Mentana. Famosa via Enrico Mentana. Esatto, la famosa via Enrico Mentana lì al nord. Va bene, quindi tu nasci come batterista in una band metal, immagino, così. Un po' di tutto, rock, metal, sì. Quello che capitava, insomma. Rock metal, sì. Ma come te la cavavi? Ma bravino, diciamo, dai. Ho suonato un po' in giro per Roma anche. Facevate le cover oppure facevate roba pure vostra? Ho iniziato con le cover. Hai finito con le cose tue. È iniziato con le cover che ero giovane, diciamo, e poi dopo, andando avanti, diversi gruppi che facciamo musica nostra, insomma. Ma tu contribuivi alla creazione delle canzoni? No, solo la ritmica facevo. Facci sentire qualche cosa. Tipo fallo con la bocca, Angelo, insomma. Non abbiamo gli strumenti. Zitto. Non è che abbiamo sentito tipo uno stappo, qualcosa del genere, insomma. Ma no, era un rim shot. Non si è sentito perché Google, sai che poi filtra tutto ciò che secondo lui non è parlato. Lui tra l'altro Cisco, puoi tranquillamente usare la schiena di Walter se vuoi fare un po' di ritmica, certo. Che son tamburo, bam bam bam, capito? Già mai vedo sta cosa, insomma. Va bene, prima io direi, però parliamo un attimo di cazzi attinenti a Pop Corner e poi ci ascoltiamo la canzone. Poi se la chat avesse delle domande, delle curiosità da chiedere al nostro Cisco 2, leggiamo le domande in diretta e lui deciderà se rispondervi o no. Secondo me, guarda, totalmente, diceva, ma ancora questo cazzo di festa, ci avete rotto i coglioni? Veramente rotto i coglioni. Esatto. Ma io da una parte non è che sono in disaccordo, Però guardi, a sto punto, dato che abbiamo spoilerato, vogliamo spoilerare? No, non abbiamo spoilerato, no, perché... No, era un fuori onda. Eravamo offline, è vero, hai ragione. Però, insomma, sono già girate voci. Anzi, addirittura ci hanno dato dei suggerimenti, tipo Deborah ha suggerito Festival Bar della Canzone Artificiale. Perché qual è l'idea? Perché la nostra idea è di fare un'edizione tormentone. L'edizione estiva tormentone. Diciamo non c'è un tema o un genere preciso, ma deve evocare il genere estivo. Esatto, deve evocare l'estate, cioè come tutte quelle canzoni che tu quando eri ragazzino ascoltavi al Festival Bar. Oppure come quando sei un vecchiaccio de merda come siamo noi, comunque continui a sentire il Festival Bar, anche il Festival. Ma non esiste. Non ci giurerei. No, comunque in radio, comunque dappertutto, da tipo marzo fino a ottobre dell'anno successivo. Cioè. Quindi sì, vedete un po' di fare i vostri tormentoni e di farceli entrare nella crania. Insomma, ho già in mente un pezzo. L'estate sta fingendo, però non posso spoilerare. Vabbè, ma te bruci così in diretta i titoli, sai che adesso qualcuno lo farà al posto tuo. Vabbè, ma tanto qui siamo una fucina di idee. Intanto Domenico domanda a Cisco se è davvero un fan degli U2. Allora, questa storia qui di Cisco 2 è molto vecchia, antichissima. Praticamente la mia prima mail Sì. Iniziava con Cisco U2, appunto perché era un fan degli U2. Ero perché gli U2 sono finiti da un... Dopo Actum Baby hai cambiato soprannome. Beh, sì, una venticinquina d'anni sicuro. Insomma. Ma anche di più probabilmente. E quindi U2 è quello, sono un ex fan degli U2. Peccato per quel brutto incidente che hanno avuto. Sì. Mamma mia. Tipo la ricchezza, il mutuo, ragazzi. No, il mutuo, quindi ce l'hanno più da guardì. Comunque, vabbè, diciamo, come dire, tributo alla prima fase della carriera degli U2, dico sempre Actum Baby, Rattle and Dam, massimo rispetto, tra gli album più belli di sempre, poi a un certo punto basta però. E intanto il nostro Mr. Zero ci poppa con un cavaliere che fa capoccetta, perché è il suo modo di salutarci consueto. Ok, Carlo dice giustamente, Cisco dice che il miglior album degli U2 è Joshua Tree, indubbiamente. E non lo so, non so perché mi è uscito un Carlo, ma mi consenta, ero ammaliato dal presidente. Sì, sapete che quando esce fuori la capoccia del presidente, comunque in qualche maniera... Sapete che quando lo rivedo così col senno di poi dico, cazzo, finirà per mancarci, perché insomma stiamo peggiorando senza di lui. Quindi... Beh, d'altronde, come dici io, però i tempi in cui c'era Craxi si stava meglio. Vabbè, ho capito, c'era ancora un minimo di decenza all'epoca. Allora, il problema di quando vivi un'epoca in continuo declino, cioè, il problema è quello, insomma. Si va sempre peggio. Sono d'accordo, sai, questo è un punto abbastanza importante, perché secondo me non è tanto quello che era meglio prima, è che il problema è che quello che è oggi è molto peggio, no? Poi tante volte pure con Walter ci riflettiamo sul fatto che il politico da allora c'ha una preparazione, no? Mo al di là del fatto che invece oggi questi, cioè, la politica si fa su Twitter dicendo delle stronzate. E più abbiamo capito che oggi si può mentire spudoratamente senza grossi problemi. No, sì, cioè, sì, proprio... ma poi oramai non c'è neanche più il video di oggi di Trump di Gaza, ragazzi. Mamma mia. È una violenza ed è una malvagità inaudita e passa quasi inosservato, perché oramai è tutto buono, capito? Cioè, tutto va bene. E questa è un po' forse la cosa che un po' ci turba, ecco, da quel punto di vista. E si è normalizzato tutto, niente più è in grado di scuotere le coscienze, come possiamo dire. Mamma mia. Poi però arriva uno che durante un pezzo di cabaret su un palco augura, tra virgolette, si augura l'ictus di Salvini, e allora lì scandalo, apriticielo... Dai, cioè veramente, chi è stato questo? È stato un comico di origine albanese sul palco di Propaganda Live, che ha detto una battuta del tipo: ah no, perché io sono albanese ma sono la rota alla Bocconi, che se lo viene a sapere cioè Salvini... due parole che nella stessa frase possono far venire l'ictus a Salvini. Speriamo, io spero, dice, o almeno spero, apriti cielo. E ha sentito il dovere di scusarsi anche Diego Bianchi ufficialmente. Io sono assolutamente stato contrario, cioè filosoficamente secondo me non si doveva scusare, uno perché non l'ha fatta lui la battuta, e due perché comunque il comico ha il diritto di satira. Se non ti fa ridere, pace, però insomma, a fare lo scandalizzato dopo tutte le porcate che hanno detto per anni. No, infatti il problema è che quello è un comico e loro no, quello è il problema alla fine. Quindi quando tirano fuori... Ah no? No, esatto. Vabbè, poi Bianchi, diciamo che non è più quello che finge di essere da 25 anni anche lui, come gli U2, insomma. Quindi. Ah beh, sì, ma lui e Macox sono diventati i famosi comunisti col Rolex, in un certo senso. Però vabbè, ancora fanno delle inchieste carine, vabbè. Però perché parlare di propaganda? Ma concettualmente ma ci può anche stare, il problema è tutto il resto, insomma. Ma comunque, perché poi il radical chic, non so chi era, ieri che ha tirato fuori questa cosa del radical chic, che io mi sono sempre domandato, no? Ma se tu a me, Simone Pizzi, mi dai da radical chic, cioè non hai capito perché io non so che cosa significa chic, quindi... Ma chi è che ti ha dato del radical chic? No, però tante volte nelle discussioni, tu radical chic, perché capito, cioè non sa, neanche la gente che te lo dice sa che significa. Tutto comunista col Rolex, che si è venduto il Rolex. Esatto. Regalato. Vabbè, comunque, insomma, tra l'altro nel frattempo Domenico in chat prima suggeriva anche un altro titolo alternativo alla Kermesse, il Neuro Festival, il festival della canzone demenziale. Ma sai che probabilmente qualcosa del genere, come festival della canzone demenziale, credo credo che esista. Sì, sì, ma te pare. Aspetta, io è quello da fare canzoni demenziali. Vabbè, no? Quello credo, sarà un filone, sarà uno spin-off indubbiamente. Insomma, comunque, vabbè, ragazzi. Che vedevo di? Che facciamo? Vogliamo, insomma, la prendiamo un po' larga? Sì, possiamo prenderla larga. Io volevo sapere da Gualdi. Ma ne abbiamo parlato della serie televisiva di Dune? Credo di sì. Prophecy, sì. No, ah. se ne avete parlato io dormivo, anche perché non l'ho vista, quindi. Vabbè, una serie, dobbiamo parlarne. Parliamo un attimo, poi sentiamo pure. Allora, diciamo una Walter serie che e Cisco U2. Una serie che è nata con questo presupposto. Ma sti cazzi, vediamola. Capito? Cioè, è così. No, io ancora peggio. Cioè. Sì, sì, cioè, nel senso, comunque non mi aspettavo niente di che, insomma, cosa le solite, diciamo, serie che sono nate, nascono da un successo di diciamo cinematografico, dal momentum, e poi sarà quella serie un po' leggerina, e invece poi alla fine vai a vedere, è una bella serie strutturata bene, insomma, comunque soldi ci stanno, magari non sono tantissimi, ma ci stanno, insomma, è fatta bene anche gli attori, a parte l'attore che fa il, come cazzarola si chiama, il tizio quello che fa bruciare la gente lì, non mi ricordo come, che praticamente è il Ragnar Lothbrok di Vikings, giusto? Sì, Vikings, sì. Che insomma c'ha la stessa faccia, quello, cioè non è che c'ha tutta questa grande capacità attoriale, non ce l'ha, secondo me. No, però è un caratterista. No, però diciamo che c'ha il fisico, cioè c'ha la presenza, no? Anche scenicamente, comunque è bello, cioè nel senso è anche bello a vedersi, no? Tutto sommato. E ci sta a fare comunque questo personaggio un po' ambiguo. Però mo, al di là dell'entrare nella storia, io devo dire che mi sono approcciato alla serie di Dune veramente pensando, dico, questa deve essere una puttanata. E infatti non la volevo vedere, però avrei sbagliato, perché poi è difficile che io parto veramente con un preconcetto che mi impedisce di vedere cose. E infatti poi alla fine mi sono sforzato e devo dire che è una storia bella e originale, 10.000 anni prima dei fatti dei film, insomma, della storia. Ma è come se fossero passati 10 anni. 10 anni, sì. Io questa è la cosa, ragazzi, che purtroppo lo so che rompo i coglioni su sto fatto, però è antropologicamente insensato che 10.000 anni dopo ci sono le stesse casate, le stesse persone, parlano la stessa lingua, si vestono la stessa maniera. Che parlano la stessa lingua non lo puoi sapere, perché c'è la stessa struttura politica. Se non c'è progresso, cioè il progresso sembra, in questo tipo di fantascienza sembra che il progresso si sia fermato decine di migliaia di anni fa, e tutto rimane stabile. Sì, ma c'è anche una giustificazione al fatto che senza i computer e senza determinate tecnologie a cui hanno rinunciato più di tanto, Marco, non si può approfondire. Però 10.000 anni, cioè non stiamo a parlare, cioè io già non lo tollero in Star Trek Discovery che quelli 1.000 anni nel futuro erano tutti come se come parliamo delle guerre stellari, pure peggio, insomma. No, però appunto no, c'è, cioè, sta cosa che il mondo è immutato, è immutabile, quando no, allora lì, quello di Star Trek è semplicemente proprio mancanza di fantasia, non c'era bisogno. Tra l'altro, a proposito di Star Trek, salutiamo, insomma, leviamoci il cappello e salutiamo qui il coccodrillo, lo dobbiamo fare a Roberto Orci, che Roberto Orci è morto? Ci ha salutato. No. È anche un anno più giovane di me, era, quindi potremmo. 73, sì, tipo una cosa. E come mai? Com'è successo? Heart attack. Penso di infarto, sì, immagino. Intanto, 90% delle morti su Wikipedia degli attori di heart attack. Sì, poi gli americani, insomma, diciamo che non è che. Poi quello che se mangiano e che se bevono e che se fumano. Vabbè, ragazzi. No, Roberto Orci, no, vabbè, umanamente mi dispiace pure, perché insomma, comunque era giovane e tutto quanto. Dall'altra ci ha avuto abbastanza tempo per fare tanti danni, sia nelle serie TV che nel cinema, eppure il cinema ne ha fatte de porcate, perché J.J. Abrams se l'ha portati tutti con sé. Eh beh, sì. E sarebbe bello che fosse il contrario. Adesso se l'è portato con sé qualcun altro. Sarebbe bello che anche Orci si portasse dietro qualcuno. Esatto, però vabbè, esatto, dai, non auguriamo il male, come se poi tocca scusarsi come con Salvini. No, ma poi di quel trittico malefico, alla fine l'unico che si è decente, che si salva, è Kurtzman, secondo me. Decente, insomma, sì. Poi E vabbè, poi comunque... c'è Michael Giacchino anche, che comunque è un po' un aggregato, però insomma, che gli vuoi dire, cioè, infatti, quello, cioè. Ma Giacchino è un musicista, che sì, sì, sì, però insomma solo so accollato pure loro, no, nel senso che quindi... fa parte sempre di Wagon, però insomma lui pure insomma tutti i figli, sì, di lui componeva le colonne sonore per J.J. Abrams dei tempi di Alias, quindi se l'è portato appresso, è della Grizz, sì, sì, sì. Sì, pure Lost, e quello è azzeccato, secondo me l'unica cosa buona, vabbè, sono tutti figli di come si dice, qualche cosa è buona, ha fatto anche cose buone insomma, sì sì sì, tutto sommato sì, dai, vabbè, lui è emerso perché comunque era bravo, anche se devo dire che la prima colonna sonora del primo Star Trek di J.J. Abrams, alcuni pezzi erano gli stessi di Lost, quindi cioè tutto sommato, vabbè, cioè, ma ogni compositore comunque ha un stile, delle sue sì, sonorità, sì, per cui se tu senti le canzoni di le musiche di Williams, per dire, anche se non la conosci, vero, cioè, questa è di Williams, ragione, perché una sì, firma, sì, sì, sì, sì, sì. Beh, ma come Danny Elfman, cioè li Poledouris, quando ragazzi, tu li senti, qualunque tipo di musica, poi abbiamo qua un musicista, ce lo può confermare, c'è gente che con un giro di doti fa 42 album, e non mi riferisco a Ligabue. Beh, col giro dei doci ha fatto pure Battisti, eh. Però, vabbè. E che però quindi... mi fa venire in mente Mogol. E la. Mongol. E la. Diatriba con Giorgia. Che canta come 30 anni fa. Diatriba, perché Giorgia giustamente non sarà inculato de pezza. Cioè. No, assolutamente. Però. Fa ride, insomma. Cioè, canta come una di 30 anni fa. 30 anni fa, erano fine degli anni 90-2000, ragazzi. Cioè. Pensa che Mogol si è perso un attimo, cioè non è che è cambiato tantissimo questi dettagli. No, ma non solo, io non so se Mogol si è reso conto di cosa fa il trapper medio adesso, cioè, non so se si è reso conto che è il 2025 soprattutto, cioè, quindi... Vabbè, ma io Mogol sapete che gli auguro di trovasse sull'isola deserta con Young Signorino. Young Signorino, ma che penso, a proposito, che fine aver fatto? Ma penso sia morto. E lui sarà già sull'isola deserta. Ma lui è già morto una volta, ricordiamoci che lui è già morto una volta ed è tornato, Ah sì? Come il nostro signore. Sì, sì. Figura cristologica. Un po' cristologica. Ed è stato in coma per diverso tempo, ma ne è uscito Young Signorino. Mi hanno buttato in coma e ne sono uscito Young Signorino. Cercasi Young Signorino. Però potrebbe essere il, non ho sentito nulla. Potrebbe essere il titolo della puntata. Mi hanno buttato in coma e sono uscito Young Signorino. Mi hanno buttato in coma. Mamma mia. No. Me l'hanno buttato in coma. Quello può succedere. Sei in coma, tu non lo sai. Può succedere. Me l'hanno buttato in coma e mi sono svegliato signorina. Adesso questa è Marco, segna che tra un mesetto cominciamo a lavorare all'edizione estiva, eh. Però tu segna, me l'hanno buttato in coma, Vabbè, dovevo segnare, non c'è pena, non c'è niente, eccola la penna, la scrivo qui sopra con un pezzo di carta che sicuramente resterà qui per 6 mesi. Scrivi sul legno. Ma perché fai tutti questi rumori col microfono? Perché lo devo spostare. Porco Giuda, guarda. Poi è molto radiofonico, ci vuole l'H su anno. Me l'hanno buttato in coma. Vabbè, se no vabbè. Penso che Cisco ci avesse qualche altra idea, perché lo vedevo confabulare. Pensavo... Vai, Cisco, facci sognare. Della creatività nella testa. Prendi la birra. Prendi la birra. Vabbè, anche quella può essere una canzone. Prendi la birra. È una bella idea. Vabbè, ragazzi, comunque. Prendi vabbè. La birra, trattala male. Esatto. Vuoi vedere come te stappo io? Vabbè, comunque. Young Signorino, un peccato, perché veramente ha avuto questo apice di carriera culminato in quel momento in cui si sarebbe dovuto esibire davanti a una folla entusiasta, si è cagato sotto e non è salito sul palco. Vabbè, però. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Com'è la canzone? Le canzoni degli Young Signorino. Siamo noi che non l'abbiamo capito. Da adesso, come le canzoni che faceva Young Signorino. Sì, era proprio l'alba della trap. No, secondo me lui ancora oggi, cioè tu, la canzone trap che fa cioè, avanti, troppo avanti. Ma forse anche troppo. Vabbè, dai ragazzi, ma a sto punto. No, adesso ci vuole l'inchiesta. Adesso la prossima puntata dei Pop Corner, vi prometto che vi darà notizie su che fine ha fatto Young Signore, che da qualche parte deve stare. Basta che non lo chiedi a Gemini. Da qualche parte, tipo qualche, che ne so, Regina Celi? No, ma non credo. Secondo me non era manco il tipo quello. Cioè... Rapper Young Signore. Allora, però fa... Allora, Madonna, ragazzi, Young Signorino, l'anagrafe Paolo Capuso, ragazzo originario di Cesena. Io voglio dire una cosa, perché quando cerchi Young Signorino il primo risultato che ti dà Google è il suo profilo Instagram. Quindi vediamo se è attivo. Ma perché dici 19 anni? Forse è rimasta... Perché non aggiorna, non aggiorna. Ah no, 26 anni. Attenzione, il 26 gennaio ha pubblicato... È ancora vivo. Ragazzi, si è dato alla pittura, si è dato alla pittura. Perché... La faccia, si è pittura la faccia. L'arte. Mamma mia, ragazzi, no, si è dato all'arte, cioè ha cambiato arte, dalla musica è passato alla pittura, tant'è che lui sul suo profilo si dichiara artista, in generale artista. C'è anche ragione, secondo me, cioè alla fine lui ha cominciato a cantare, tutti hanno cominciato a imitarlo, si è rotto, cioè no, basta, io voglio essere artista in un altro modo. Ma tu lo sai che gli diceva la nonna Young Signorino? Impara l'arte e mettila da parte. Ah, capito? E perché c'è Memole nel mixer? Lo so. Vabbè, comunque, ragazzi, c'è l'opera d'arte Tormento di Young Signorino, che per 80 eurini ve lo portate a casa. Io aspetta, metto. Portabili? Spero di sì. Aspettate, vi metto in chat sulla nostra chat radio il profilo Instagram. Perché, ragazzi, secondo me c'è di che era dal salotto. No, mi tocca vederlo. Ma è un po' come il Mutandari? Guarda, è quasi uno spacco una nana. Ti dirò, più spacco una nana che un Mutandari. Però insomma, comunque su Telebro Proboscide credo che verrebbe battuto a diverse centinaia di mila lire questo. Mamma mia, questi capolavori. Secondo me questo è fatto di intelligenza artificiale. No, questo rifiuta pure l'intelligenza artificiale. Fa sta merda naturale, no, poi si vede che sono tele, perché vabbè, mamma mia, ragazzi. Vabbè. E niente, quindi tutto il profilo Young Signorino sono questi nove post di... Sta a vedere i follower che c'ha questo. 76.300, pochi, ce n'aveva molti di più all'epoca. Sì. Molti sono indiani, poi non ci sono commenti, quindi io c'ho i commenti bloccati. Comunque è stato uno di prima a trovare la moda di farsi scarabocchi in testa. In realtà no, penso che esistevano già, però io in televisione c'è Lauro, mi sa che c'è da prima di lui. No, lo sai che non so, non credo. Sono tutti emuli. Cioè io comunque il primo che ho visto gli scarabocchi in faccia è stato Young Signorino. Poi ma pure io mi ricordo Young Signorino. Non lo so, perché comunque il grande Tony F. Cioè. Beh, ragazzi, ma secondo me qua vi state dimenticando Wildstar, vi state dimenticando Il fenomeno dei fenomeni, dove hanno i fratelli. Beh, sì, sì. Ah, è vero. Cazzo, lui da mo che Sì, vabbè, però lui ha fatto un percorso diverso. Soprattutto ha preso il marciapiede facendo quel percorso. Ma forse solo quello. Sì. E dove andare così, fratelli? Si è infattito lungo, però vabbè. Comunque. Però ci mancherà la carriera di Young Signorino, però potrebbe esplodere. Quale carriera? È una canzone ha fatto, cioè. No, potrebbe averne fatta anche più di una, ma non ce ne siamo resi conto. Tutto esatto. Non ce l'è fregato un cazzo, diciamo. Vabbè, ma perché sai che c'è? Non è riuscito ad essere sufficientemente transgenerazionale, quindi lui ha raccolto il massimo diciamo così, del riscontro dai più o meno i suoi coetanei, quelli un po' più giovani di lui. Non è riuscito a intercettare quelli, insomma, come dire, la musica un po' per anzianotti come noi, non l'abbiamo capito, ecco. Comunque la foto prima è del 14 settembre, insomma. Ci vuole tanto per fare lui, arte. Ed è lui seduto sulle scale. Ci vuole tanto per fare arte, Pizzi. Ci vuole tanto tempo. Non puoi metterti lì e fare un quadro con due minuti. Insomma. Beh, io per citare il grande maestro Richard Benson, a me non me frega un cazzo. Ma quello già quando aveva raggiunto lo stato di sublimazione delle idee, no? Quando aveva capito tutto. Ma secondo me quella era la droga, però poi insomma. Tra l'altro salutiamo, sempre Richard. Sempre, ci manca tanto, ragazzi. Un pollo! Abbiamo fatto, ricordiamolo, ragazzi, che trovate nei feed di Runtime Radio, ovviamente, lo speciale che abbiamo fatto. Speciale coccodrillo Richard Benson. Beh, è stata una bella puntata con Marco Bianchi. Sì, no, ci siamo veramente commossi, ci siamo preparati, soprattutto abbiamo dimostrato la nostra preparazione sull'argomento. insomma, tutti noi siamo dei Ricciardologi. Beh, d'altronde io me lo ricordo quando ero ragazzino, che appunto tante di quelle cose che trovate su YouTube a me è capitato di vederle in diretta. Sono tante cose che io sono arrivato addosso, gliele hai tirate te. Esatto. No, beh, quello, vabbè, ma quello alla fine vendevano yogurt, cioè te davano yogurt direttamente fuori dal concerto, quindi... Ma non solo, io ti ripeto, tornando diciamo alla fase al Richard migliore, ci ha fatto ascoltare il metal. Io ottava nota me lo vedevo apposta. Dai, no? Sì. Mo, vabbè, mo siamo... È un grande esperto musicale, quello sì. Sì. Era meglio che non suonasse lui, no. Però insomma... Allora, io su questa cosa sono d'accordo, ma è anche vero che è un po' controversa la cosa, perché che lui ci capisse di musica era abbastanza assodato, anche parlando con musicisti come Marco Bianchi e via dicendo. Però tutta quella storia delle lezioni musicali con la scala pentatonica e cose che alla fine erano tutte stronzate, cioè nel senso... Appunto, dico, era meglio che lui non suonasse, perché si atteggiava inventando cose che non avevano né capo né corpo. Però il personaggio è stato tutto là, perché era cascato dal ponte e dall'asero incognito. Sì, esatto. Vabbè, vabbè ragazzi, ma cioè, se non fosse stato per quello sarebbe cascato nel dimenticatoio, cioè, vabbè, nel senso, era uno come tanti che sapeva la musica, magari poteva fare, che ne so, lo speaker a Radio Rock, cioè, no, quello, insomma, però insomma. Vabbè, sì, la sua carriera, insomma, Virgin Radio lo vedo bene. Mamma mia, sì, infatti. Beh, comunque sarebbe una svolta per Virgin Radio. A Virgin Radio la gente si è buttata di sotto, poi dice, insomma. Vabbè, no, ma sì, lo station manager si è suicidato buttandosi dal... Vabbè. Comunque... Tu immagina che lavori in una radio e sei lo speaker e entri nella radio perché fra mezz'ora è il tuo turno e devi continuare a fare la trasmissione mentre che tutti ti dicono si è buttato di sotto, si è buttato di... perché poi la radio deve andare avanti, no? Insomma... Allora, mi sento di rassicurare l'audience che se un giorno dovesse arrivare Michela urlando Simone si è buttato di sotto, io sto al piano terra, quindi state sereni, non è successo niente, che... No, è semplicemente inciampato sulle ciabatte, cioè. Sì, sì, no, è più probabile, esatto, che si inciampa lei, però diciamo già la verità, insomma. Oppure si è inciampato su di lei che è cascata per terra. Ricordiamoci sempre che Michela è campione nazionale di casco per sbaglio, quindi... E casco per sbaglio, se no non casco, cioè non è che puoi cascare. C'è pure come no, c'è gente che se deve mestiere fare lo stunt, o fai quello che richiede il rimborso all'assicurazione. Ho visto Neymar rotolare per 14 km, insomma. Vabbè, ho capito, ho visto anche Simone Inzaghi tuffarsi in aria come fosse una specie di fa parte del, insomma, del... Filippo Inzaghi, perdon. Simone si tuffa adesso in panchina. Simone sta sempre avanti e indietro. Simone Inzaghi fece quel botto la volta quando aveva segnato la Lazio e lui correva e pioveva e si è fatto. Mamma mia, quello. Belle cose. Secondo me si deve essere fatto male. Faceva il vago, ma secondo me se l'ha fatto male. Deve essere lì che la Marcuzzi l'ha lasciato. Mi sa che non gli ha fatto. No, da mo' che sono lasciati che la Marcuzzi. Ma tu hai lasciato diverse persone. La Marcuzzi ha fatto parecchie vittime, sì. Felici, però. vittime. Ricordiamo che ha lasciato pure le tette la Marcuzzi a un certo punto della sua vita. No, dai, non si dicono queste cose brutte, dai. Ah, non è una cosa brutta, se l'è ridotte, mica ho detto una cosa brutta. Perché dici troppo, troppo tempo. Dopo una certa... Sì. Dopo una certa comincia ad esserci la gravità, che dà problemi. La gravità c'è sempre, però poi... invece c'è cosa, come si chiama quell'altra sempre che fa... Oddio, mannaggia. Quell'altra che fa cosa? Mi ricordo tipo Sabrina Salerno, che sempre... sempre quell'altra showgirl che ogni tanto si fa le foto nude con la maglietta da Lazio, sempre Anna Falchi. Sì. Devo dire che quella c'ha, oramai ce l'ha 60 anni Anna Falchi, eh. Una cinquantina. Vabbè, dai, c'è una cinquantina d'anni. Devo dire che tutto sommato, un po' per l'esercizio, un po' per la plastica, insomma, tutto sommato ancora. Invece la povera Sabrina Nazionale, pochi mesi fa, si è dovuta, credo avesse un problema proprio. Sta in forma adesso? Sì? Sì, la seguo sempre su Instagram, che è sempre. È tutto a posto. Bene, è tutto bene. Beh, tra l'altro, si è sistemato. L'anca pure. No, perché poi, insomma, parlando di Sabrina, giustamente Marco l'altro giorno ci ha svelato una cosa incredibile, che è il videogioco dedicato a Sabrina Salerno. Sì, una cosa che il videogioco Sabrina Abominevoli, in cui c'è questo personaggio molto dovreste vederla. Cioè, questo personaggio che è Sabrina Salerno che deve raggiungere il palco e si fa largo per strada a colpi di zinna. Fantastico. Bellissimo. Ma poi tra l'altro non è che tipo estroflettono dal corpo e che scacciano le persone. Fantastico. Cioè, prendono vita loro. Sì. C'era un gioco di Samantha Fox negli anni fine anni 80. Quando ero giovane. Aspetta che io intanto ho trovato il gameplay, però aspetta, cerco di non... Ah, poi la musica è fantastica. Aspetta, no, beh, non ve lo sto facendo sentire perché c'è un commento sotto, comunque vediamo, sto scorrendo. No, ma c'è il video? Voice. È che continuano a far vedere solo una schermata tipo di caricamento. Beh, io comunque, ragazzi, quando ero ragazzino, ci avrò avuto 15 anni quando c'era Samantha Fox. Eh sì, dai, comunque sì, Fox, sì. C'avevo il poster in camera. Ma questo è il gioco? Stiamo vedendo il gameplay di Sabrina. Linka sulla chat. Emozionata, però. Terribile. Ah, no. Sono delle cose terribilissime. Cioè, se uscisse oggi una cosa del genere, ragazzi, qualche cosa di fenomenale. Aspetta, da vedere quando sconfigge. No, vabbè, non è molto radiofonica questa cosa, però veramente prende a zinnate la gente che arriva, è qualcosa di fenomenale. Mamma mia, ma che grafica è? È uno Spectrum questo. È un Commodore 64, sembrerebbe. Comunque Aeropuerto sì. non è un gioco italiano, probabilmente l'hanno fatto in Spagna. No. Sì, quando andava a fare le spagnole. Le spagnole. Vabbè, però non so. No, è Spectrum questo, che è Commodore 64. SP Spectrum, sì. Ah, sì, anche, ok. Però non sembra molto giocabile, perché ogni volta che ha un contrasto praticamente perde una vita. Quindi la stezzinata non è... uno c'è... 25 punti a zinnata. Vabbè, ma perché non è buono a giocare questo che sta giocando? Vabbè, comunque, sì, bei momenti. Bei momenti, ragazzi. Vabbè, grazie Guardi di averci sbloccato questa cosa di voi. Questo ricordo, questo trauma di infanzia, vabbè. Vabbè, io ascolterei il brano a questo punto. A questo punto, sì. Ok, allora ci ascoltiamo. Voi il brano. Il brano che... Aspetta, Cisco, dici il titolo. Lo dico? Vai. Va bene. Sti cazzi se il Papa... Se muore pure il Papa, manco ricordavo. Se muore pure il papà, sti cazzi se muore pure il papà, sti cazzi se muore pure il papà, sti cazzi se muore pure il papà, sti cazzi se muore pure il papà, sti cazzi se muore pure il papà, sti cazzi se muore pure il papà. Questa canzone non parte con il botto, d'altronde non ho chiesto io di stare qui sotto, quindi non so manco che cazzo sto facendo. Tutti i rapper famosi sono imbarazzatissimi al mercato, trappano tutti i giorni con bei tenori. Se non fosse chiaro vi piallo su due piani e poi brucio tutti quanti i vostri numi tutelari. Perché? Sti cazzi se muore pure il papa, sti cazzi se muore pure il papa, sti cazzi se muore pure il papà, sti cazzi se muore pure il papà, sti cazzi se muore pure il papà, sti cazzi se muore pure il papà, sti cazzi se muore pure il papà. Potessi io tornare sulle strade cantando tu cura kumisi kirakusi per farvi mori tutti di gelato, così voi smetterete tutti quanti di rompermi i coglioni. Impercettibile accenno di mandolini sottili, ma intanto mi son reso conto che c'ho 40 ADHD, che per questo motivo torno spesso in galera, però almeno lì ci stanno meno froci. Mo minchia, mi sono reso conto che sono ipocrita forte, perché la mia fine è inevitabile, proprio come lo... Sti cazzi se muore pure il papa, sti cazzi se muore pure il papa, sti cazzi se muore pure il papa, sti cazzi se muore pure il papa, sti cazzi se muore pure il papa, sti cazzi se muore pure il papa. Suonate la chitarra mentre io suono il culo di chi mi custodisce. suono il culo di chi mi custodisce. Beh, devo dire, condivisibile tutto sommato. Non troppo, io vado a vedere se c'è la Digos qui di sotto. Gli ho fatto perché... Vabbè, ragazzi, ci sono dei momenti di altissima denuncia sociale, no? Quando dice che comunque in carcere ci sono meno froci, mi sembra una citazione... Importante, importante. Tra l'altro devo dire, la canzone è figa. Figa pure la parte... tra virgolette musicale, pompa una cifra a un certo punto e vabbè, pure ste variazioni che ci stanno, immagino che hai usato di lingua, perché ogni tanto cambia proprio lì idioma, no? Sì, inventa le parole, non capisco il significato di cui non so cosa ho scritto, però vabbè, no, ma non lo so, esatto. Bisogna sempre, o è meglio non sapere, far finta, io non lo so, meglio, sì, sì. Io non lo sapevo, comunque su uno immagino che hai usato, no? Sì, sempre su uno. Ecco, dalle versioni 4 devo dire che infatti è migliorato, è diventato, ma proprio pulito, proprio anche il suono, è una cosa veramente notevole, e questi strumenti possono ancora migliorare. Marco, hai preso appunti, che ci possono, tutti i spunti che ci servono per quando andremo in carcere dove ci sono meno froci, per fortuna, perché sennò pensa che ci succedeva a noi, sicuro. Basta non andare in Vaticano, il senso è quello, che già dice il nome Vaticano. Esatto, o Naticano. Vabbè, adesso arriva la Digos. Adesso arriva per davvero, però vabbè, che se non è arrivata durante sti anni con tutto quello che abbiamo detto, siamo solo segnalati. Sì, dai, cioè, comunque, secondo me adesso ti arriva su WhatsApp l'avviso de Meta che ti dice che ti stanno spiando con Paragon. Con sì, Paragon, esatto. Paragon. Oh vabbè raga, ma comunque io invece voglio dire un'altra cosa, visto che siamo saltati di palo in frasca, se vi devo consigliare una cosa, mi raccomando, inizia la terza stagione del Cafone. Richard. Richard, vedi, sì. Col Cafone mi capisco subito, Richard. Mamma mia. Sempre più grosso, tra l'altro. Tra un po' non potrà più girare il collo, però va bene. Al già non lo gira più. Sì. Comunque io c'è sempre io questa cosa. Io non so di che stai parlando. Ti perdi una chicca perché si parli. Cioè non è quella. Allora, Richard non è una di quelle serie che diciamo vedi un vedo che inizia. Però quando lo vedi te lo devi vedere tutto perché è assurdo. Cioè, non puoi staccare. Non puoi staccarte. E c'è sempre quell'elefante nella stanza. No? Cioè, anzi, ce ne sono due. Uno, cioè, le condizioni igienico-sanitarie di Richard, che è questo che va in giro con un cambio dei vestiti che c'ha addosso e uno spazzolino che tiene in tasca. Quindi non mi immagino e che. Lo usa per lavarsi i denti. Esatto, cioè, lo usa per pugnalare la gente. Esatto. E l'altro, ma se questo va sempre in giro, mangia le merda. E l'unica cosa che fa è cammina e non come fa a diventare. Come fa a essere così grosso che c'ha un bicipite grosso come la capoccia del vitello? Io non lo so. No, ma poi è sempre pettinato, la barba perfetta, perché lui è un ex militare, quindi comunque mantiene la rigidità proprio etica. Capito, ma lui l'unica cosa che fa per allenarsi è camminare e prende a capocciata la gente. Cioè, non ti vengono i bicipiti così grossi, capito? Cioè. Vabbè, in realtà noi non lo sappiamo cosa fa, diciamo... A tempo perso. Esatto, perché noi becchiamo sempre quelle settimane dell'anno in cui c'è qualche cazzo. Dove non si allena e mena la gente. Esatto, poi il resto dell'anno magari è tranquillo. Però c'è, anche mena la gente è un allenamento. Sì, però non ti asciuga, non ti fa diventare grosso. Dice, vale. Comunque la prima puntata è incredibilmente finita senza neanche una capocciata. Cosa che io ormai faccio il drinking game, bevo il cicchetto ogni volta che parte la capocciata. Sì, lui o qualcun altro. No. Capocciate forse no. Abbassamenti vari, sì, però. Sì, scherzo. Capocciate no, non ce le sono state. Però la seconda sì. Sì. Che ha ripreso un po' il ritmo. Ma infatti io mi auguro che quando affronterà, come si chiama, la guardia del corpo, il bestionaccio. Poli. Come? Poli. Mamma mia, il pezzo lì del braccio di ferro. Che era? Braccio di ferro, no, canadese. Il braccio di ferro. Non mi ricordo che tipo, Madonna santa. Lì però io mi auguro che lui comunque gli dia una capocciata sul setto nasale, però dal basso verso alto col saltello, no? Tipo colpo di testa in casa. Esatto. Perché quello, cioè veramente c'è l'antagonista che sono destinati a menasse come due Fabbri Bergamaschi, che è 20 centimetri più alto di lui. Come dice Nigli, l'ultima volta che ho visto qualcuno più grosso di te era sul Monte Rushmore. Era sul Monte, mamma mia, impressionante. Sì. Vabbè, comunque Pizzi, che non sa di che cosa stiamo parlando e quindi lo sento un po' escluso, deve recuperare. Perché allora, Pizzi, tu hai presente i due film con Tom Cruise che si chiamano Jack Reacher? Non credo. No. Nemmeno quelli. Manco quelli. Ma tutto sommato è meglio. Immaginati che hanno preso lo stesso personaggio e l'hanno che fatto non c'entra niente, e l'hanno fatto interpretare prima a Tom Cruise e poi a un energumeno il cui collo è largo come la mia panza, cioè. Che altro, 8 metri. È un altro 1,96 m. Ecco. Però il problema è che è in tutte le direzioni, capito? Esatto, è un cubo praticamente. Quindi potete immaginare, insomma, la fedeltà al personaggio. In realtà, da quello che ho capito, non avendo mai letto i libri, il Richard dei libri è grosso, quindi è Tom Cruise che era fuori, era un po' fuori contesto. Però vabbè, comunque è un ex poliziotto militare, diciamo, un ex detective militare che dovrebbe avere delle spiccate doti da investigatore, appunto, ma in realtà è uno che va molto per le spicce. No, però in realtà è un ottimo osservatore, cioè, anche dal punto di vista deduttivo è molto paraculo. E poi, e poi c'è la faccia rotolla proprio. Cioè. Esatto, e poi ripeto, c'è un'etica comunque ferrea, nel senso che non fa male a nessuno e per nessun motivo che non se lo meriti. Ma se se lo meritano, sì, quante gliene dà. Vabbè. E poi soprattutto riesce a nascondere i corpi, diciamo, piegandoli. Cosa fai se non riesci a infilare sotto la scrivania un corpo da nascondere? Lo pieghi gentilmente. Che scene truculente, cioè, capito? Quella tranquillità con cui io piego le camicie quando vado a averle stirate, tra l'altro, cioè, il savoir faire, così, capito? Ma il bello è che chi gli sta intorno non si scompone, cioè adottano immediatamente la sua stessa filosofia. Che cazzo gli vuoi dire? Cioè. Vabbè, io vabbè, se lo meritava, hai fatto bene a piegarlo come una graziella, vabbè. Poi no, ragazzi, no, guardatelo su Amazon Prime, hanno droppato le prime tre, i primi tre penso episodi. Penso che domani esca la quarta, sì. Ogni giovedì, esatto, ogni giovedì un episodio. Ecco, allora, vabbè, recupereremo anche per noi comuni mortali che non abbiamo visto codesta meraviglia. Mentre invece per chi amasse un po' le cose un pochino più all'italiana, quindi un pochino più a cazzo di cane, ricordo, cioè, io ho sentito chi amasse, non lo so poi. Qui arrivano le bombe, adesso bombarda. No, dicevo che chi preferisse qualcosa un po' più all'italiana, è uscita anche la sesta stagione di Rocco Schiavone, che stasera c'erano 2 puntate. Ah, stasera, vabbè, tanto su Replay ci sono già tutte. Sì, sì. 8 puntate da, vabbè, diciamo 4 serate, quindi 8 puntate. Se le voleste guardare, sempre lui, sempre una rottura dei coglioni del decimo livello. Io invece, se volete, ho un giudizio piuttosto su Zero Hour con Robert De Niro. Io ho visto solo l'inizio, pure lui, mi sa. Allora, in teoria, tu hai visto fino alla fine la puntata, giusto? Sì. Ok, quindi hai capito che c'è un piccolo problema con Robert De Niro. Sì, nel senso sul personaggio, dici. Esatto. Sì. Che teoricamente è fighissima questa cosa, no? Sì. Perché poi c'è il fatto che lui dimentica delle cose e deve cercare di ricostruire che cosa ha dimenticato, che cosa, informazioni importanti, ma saranno veramente informazioni importanti visto se gli si sono incasinate nella testa. E quello è figo in realtà, perché se sviluppato bene e potrebbe essere interessante. Il problema è che ci sono tutte quelle storie di contorno che sono dei riempitivi della Madonna. Cioè. Comunque sono 6 puntate. E io sono arrivato alla terza. Cioè, c'è sta l'amante, il braccio destro che c'ha i problemi, che è ricattato. Ragazzi, io ricordo che essendo una serie Netflix infileranno carne inutile per 5 puntate, poi alla sesta puntata cercheranno di gestire un finale. Io vi ricordo, è Netflix, quindi farà. Io ho visto solo la prima, ma sono sicuro che essendo una serie Netflix farà questa parabola. Non lo so, però comunque adesso ci sono cose interessanti. Sì, guarda, Netflix, in mezzo a Netflix si vede in streaming, no, con la parabola. E quale? La parabola di Nostro Signore. Comunque, in ogni caso, sì, è come se ci fosse una trama principale, ma è il centro, è tipo lo stecchino, e intorno ci hanno messo degli rosticini de merda, però, cioè, mamma mia, che schifo, capito? Quindi c'è la cosa, ti aspetti che comunque vedi lo stecchino, cioè, e vedi, però tutto sommato potrebbe essere interessante, c'è un rosticino, no, è de merda. Ho quindi... capito, però non è che se togli il rosticino del merda e ci rimane un zeppo di legno sono contento, cioè, no no no, infatti ti sto dicendo uguale. Tu ti aspetti perché teoricamente la forma ci sta, ma la sostanza non lo so. Vabbè, ma dopo tre puntate anche il presupposto per la trama principale della serie è molto sì, sì, sì, sì, sì, per carità di Dio. Poi mi dovresti. Però quello però è. Ah, quella è una figa, oh. A me quello è piaciuta. Quello è una bella storia di base. Poi bella all'inizio, poi dopo si perde proprio completamente. Però mi dovresti spiegare perché, in un'ottica di un. Di questo sorta di attacco hacker globale, il presidente degli Stati Uniti dovrebbe mai nominare una commissione, esatto, il cui capo ha più poteri del presidente stesso? Esatto. Cioè, che senso c'ha? Non riesco a perché trovare. Perché non si fida neanche di se stesso. Presidente nero donna, ovviamente, perché siamo su Netflix, quindi siamo... Dove lo metto? Cioè, vabbè, ma è la cosa meno stupida che ho visto in quella serie. Quindi, quella, la presidente nera donna che cerca in qualche modo di... Che ovviamente si dimostra quasi incompetente, tra l'altro, quindi cioè, vabbè. Cioè, vabbè. Secondo me l'idea non era male, però ci hanno messo un po' troppa carne intorno che non c'entra un cazzo. Beh, a tempo perso vedrò. E poi Robert De Niro, ragazzi, cioè, De Niro, uno gli vuole bene, però basta. È muto. Ma non gli va, ma è proprio uno che non gli va. E là non c'ha nada. Cioè, lì va. È muto, evidentemente, ragazzi, anche lì influisce. Non so neanche se è muto, più che altro forse è lui che vuole far vedere che in quella proprio. Guarda che De Niro c'ha almeno due o tre ex mogli che gli ciucciano soldi, Gli ciucciano i soldi, fino a chi gli ciucciano i soldi. No, le bisogna vedere se gli ha ciucciato pure qualcos'altro. Ma quello sarebbe stato meglio, insomma, Non credo che si sia fatto mancare niente da quel punto di vista. No, non credo neanch'io, ma tra l'altro, diciamoci la verità, insomma. È stato un grande, però insomma a un certo punto, ragazzi, che basta. È un po' come Harrison Ford, che c'era un periodo in cui era talmente costoso, costava talmente tanto a inquadratura che praticamente era sparito un po' dalla circolazione, faceva proprio soltanto dei film importantissimi. Ma ultimamente si vede che la vecchiaia c'hai paura di morire, c'hai paura di stare da solo, lo trovi dappertutto. Harrison Ford, che insomma ricordiamo è l'unico per essersi ridotto a fare anche Hulk rosso, esatto, che poi in realtà il generale Rogers, che poi diventa presidente Ross, infatti non mi suonava, era stato interpretato prima da William Hurt e prima ancora da James Elliott, come si chiamava il precedente, il primo generale Ross nel film di Ang Lee. Non lo so, già dimenticato io. Però voglio dire, insomma, per essersi addirittura abbassato a prendere un personaggio che era stato interpretato da due attori prima di lui, evidentemente proprio gli andava ad essere pagato, Sì, oppure, ma secondo me non è una questione neanche dei soldi, è proprio una questione di. Sì, no, ma più che altro proprio. Lui ha accelerato proprio tanto, perché lui veramente c'era un periodo che faceva solo roba, insomma, da un certo peso, proprio perché comunque lui c'ha anche cascia importante, no? Ma si vede che prima questi soldi gli davano, poi hanno smesso di dargli. No, ma magari gli danno pure. Il problema è che lui, secondo me, lo fa per non stare a casa, cioè perché quando sei vecchio e sei lì tipo William Shatner, aspetta il giorno in cui muori o ti attacchi al barbon o fai Hulk rosso, insomma. Esatto, io farei Hulk rosso, cioè nel senso. Beh, poi ha fatto tanti filmetti, ragazzi, cioè ha fatto Richiamo dalla foresta, un sacco di roba che tu dici vabbè, te lo guardi, dici vabbè è carino perché c'è Harrison Ford, però cioè un film che non avrebbe mai fatto anni fa, insomma. Questa è la cosa che mi fa riflettere un pochino, no? Quindi mi fa pensare al fatto, sai, uno diventa vecchio, non vuoi stare, insomma, capito? Ma magari può fare cose che non ha fatto prima, cioè, però vedi, cioè lui per esempio è tornato a Han Solo e Indiana Jones, quando lui disse proprio, cioè 15 anni fa lui disse proprio che non avrebbe mai più interpretato Indiana Jones, anzi no, 15 anni fa 20 anni fa, dopo il terzo film Indiana Jones, lui disse che non sarebbe mai tornato a fare quel personaggio. Il quinto pure. Sì, poi ha fatto il quarto e il quinto. Ha rifatto pure Deckard, cioè nel senso ha rifatto pure Blade Runner a un certo punto. Blade Runner, sì, a un certo punto. Quelli che ha detto non rifarò mai. Ha rifatti tutti, sì. Aspetta, quando è che l'ho detto? Sì, tra l'altro qualche milione fa. Tra l'altro diciamoci anche la verità che il secondo film di Blade Runner sputtana completamente il primo, cioè... Cioè, tutto quello che era poi un po' anche la poetica del primo. va tipo... niente col primo, però a me non mi è dispiaciuto. No, vabbè, no, ma il film è anche... c'ha delle capacità tecniche fuori dal comune, soprattutto con la, secondo me, la parte sonora dei film di sì. Villeneuve, deve essere... li devi vedere in un bel cinema, perché li devi sentire quei film. Sì, sì, infatti io pure l'ho visto al cinema, ma anche fotograficamente è bellissimo, cioè, sì, comunque... sì, sono sempre imponenti. Però il film, cioè, esplicitando in maniera così netta determinate cose, alla fine perde proprio, distrugge un po' la poetica del primo film. Il problema del Blade Runner, del secondo Blade Runner, come altre volte, è Jared Leto, perché personaggio veramente gestito male, attorialmente danneggiato, secondo me, dalla performance di Jared Leto. Poi boh, che vedevo dire, non mi ricordo particolari elementi da sto punto di vista, ma mi ricordo insomma il fatto che il film mi ha fatto un po' roder culo da un certo punto di vista, ma anche non so che vai, è Jared Leto l'attore, come non è Jared Leto? Sì, quello che fa il successore della Tyrell. Esatto, di Tyrell. No, non sto parlando di coso, Ryan Gosling. Ryan Gosling, no, di Jared Leto. Sì, ok. No, Ryan Gosling, tranquillo, insomma. Vabbè, comunque. Che poi è un po' la stessa cosa che è successa quando hanno fatto 2010 anno del contatto, no? Vabbè, a parte che c'era manco più. Non dovrebbe averlo mai visto, però, lo sai. Sì, ho visto io. Io l'ho visto, e a parte che era uno scimmiottà un po' il film di Kubrick, e poi boh, cioè. Vabbè, seguire il libro. Hanno cercato di farlo, seguire il libro, hanno cercato di farlo. Merda, dai. Certo che era merda. Come pensi di poter fare un seguito in film di Kubrick? Cioè, sei un ottimista inguaribile, insomma. Anche cioè. Un coglione. Ma no, se sei un coglione, non lo so. Anche perché Kubrick ha anche intenzionalmente a volte fatto degli errori tecnici, pure come regista. Cioè, ma 2001 Odissea nello spazio, ragazzi, oggi tu te lo riguardi e... Beh, quel film ha previsto un sacco di cose, comunque. Sì, sì, ma è comunque cinematograficamente un'opera intoccabile. Ma anche l'iPad. Sì. Anche, sì, come no. Ha previsto un sacco di cose. Poi, se fosse, non avendo letto il libro, non so se Kubrick comunque le ha trasposte dal libro o se le ha pensate lui per primo, non ho idea. Però comunque quel film ha anticipato cose che sono successe 50 anni dopo, insomma, mica uno. Beh, diciamo che il lavoro visivo su quel film è molto... sicuramente viene dai libri, molto viene da proprio dalla sua interpretazione, dalla sua visione, no? Perché poi sta là, insomma, no? Il regista è che poi non esistono più, i registi in quel senso lì rappresentano, ma pure Blade Runner stesso, no? Cioè alla fine se tu vai a vedere dell'interpretazione dell'immaginario di quel tipo di società, comunque c'era una costruzione visiva veramente importante, no? Però, vabbè. Molto neon, molto anni 80, però bella, dai. Sì, sì, ma se vedi comunque la logica cyberpunk non si è mai distaccata da quel tipo di immaginario. L'ha un po' creata Blade Runner. Sì, ma sì, anche per un motivo, perché comunque la letteratura cyberpunk non si è evoluta a un certo punto, nel senso ci sono stati i capisaldi di Dick e di... un altro paio di scrittori, Gibson, eccetera, poi basta, in qualche modo è una letteratura che non Mel, è... Mel Gibson. Sì, esattamente. Che fine ha fatto Mel Gibson? William Gibson, su! No, insomma, cambiando discorso, che fine ha fatto Mel Gibson, che è un altro formulato. Il cervello, però stava girando il seguito della Passione. No, dai. La Passione 2, che è? Sì, è morto. Vabbè, comunque è un altro... un altro pazzo fanatico. Sì, lui è un fanatico, lui è completamente uscito di testa, sì. Lo Apocalipto ha fatto lui, no? Sì. Era suo Apocalipto, sì. Sì. Oh, sì. Vabbè, perché no. Vabbè, ma uno che poi avessi tutto questo curriculum da regista da dire adesso faccio un film aramaico, ma chi cazzo, cioè? Chi cazzo sei? Però ma vabbè, quello sai che c'è, comunque tanto sai che dietro c'è una struttura. Gli è andato appresso, perché pure Jim Caviezel è un altro sciroccato. Ma vabbè, noi abbiamo fatto il film del primo re, che è tutto in latino, cioè alla fine. Forse il latino lo capisci un po' meglio dell'aramaico, sì, insomma, relativo, no? Ma io non so contrario a questo tipo di cose, perché tanto sai che dietro c'è una struttura che ti costruisce tutta la parte linguistica. Il problema è proprio l'esasperazione ideologica di certe cose. Vabbè, d'altronde se sei un fanatico, sei un fanatico. Beh, esatto, ma comunque, anche perché poi voglio dire, sì, anche in latino un film, ma perché dovresti, cioè, cosa dovrebbe aggiungere uno spettatore che anzi magari è infastidito perché perde dettagli visivi per dover leggere per forza i sottotitoli? Perché sì, io me potrei vedere anche un film in tedesco con i sottotitoli, che dice no cazzo, perché l'intensità della recitazione, l'attore che non è doppiato, sì, ho capito, ma se io poi sono costretto a leggere i sottotitoli per tutta la durata del film, ma quante cose perdo? Vabbè, però questo, ci sono tantissimi film che sono fatti, che hanno porzioni importanti del film magari fatte nelle lingue, che ne so, in tedesco oppure, e quindi alla fine sei comunque costretto, cioè il problema è che sì, io sono d'accordo con te su questo aspetto, però è vero pure che dall'altra parte c'è un fattore immedesimativo, no? Cioè io per esempio, vabbè, quando ho visto FireQuest, che è un film che parla dei cavernicoli, e quindi non c'è un dialogo e non ci sono manco i sottotitoli, perché quelli quando si parlano fanno, cioè è ovvio, no? Però tutto sommato tu dici vabbè, ma quello è un modo di rendere immersiva una cosa che altrimenti tu avresti fatto male in un'altra maniera, no? Cioè perlomeno sono scelte, no? Devo dire la verità, non le condivido al 100%, però non mi sento neanche di condannarle, insomma. Fortunatamente poi sono delle eccezioni, quindi una volta ci può anche stare nella vita che ti capita di vedere il film e guardi in latino, oppure Il nome della rosa è pieno dei pezzi che si capisce un cazzo di quello che dicono, cioè. E allora ragazzi, io però a questo punto, perché quando si parla di doppiaggio, il doppiaggio dei doppiaggi, io devo citare una cosa. Simone, leva la base, spero che si senta, perché a questo punto ricordiamoci sempre, aspettate che non c'era il volume, aspettate che lo riavvolgo. Hai spezzato tutto il climax così, lo so, che mi tristezza, scudo. Che tristezza, noi non sentiamo niente, non mi arriva? No. Arriba, non arriva. Abbiamo perso anche tutti gli altri. Abbiamo perso pure noi stessi, così siamo rimasti. Allora aspetta, lo rimettiamo in chat. Ovviamente la citazione era: mo chi ci salverà dalle forze di male? Ah, beh. Nocturne. Mamma mia, ragazzi. Di cui io sono un fiero possessore di una copia. È grande. Una ne hanno venduta, Marco. L'ho venduta io. Le malattie sante. Amici in chat, recuperatelo, guardatelo, perché questo, il doppiaggio di questo dovremmo fare se non noi, magari chiediamo a YouTube di farlo, dovremmo fare un documentario sul doppiaggio di... No, ma ne hanno fatti milioni di questi video sui doppiaggi brutti dei videogiochi. No, non il doppiaggio, la storia di come e perché, chi ha avuto il coraggio di doppiare in maniera così amatoriale questo videogioco. Ma in realtà c'è un motivo per cui venivano fatti così, perché soprattutto c'è stato un periodo in cui comunque doppiare in italiano era quasi una cosa che bisognava fare, e invece di farli fare in Italia, dove il doppiaggio costava tanto, li esternalizzavano praticamente all'estero, a Londra, dove c'erano gli scappati di casa e facevano sta roba qua. Sì, insomma. Però questa tizia è romagnola, tutti... non è una polacca che no, ma vabbè, però magari, questi, cioè, chi c'avevamo di italiano? C'è la segretaria lì, segretaria, venga, che lei parla italiano, ma chi ci salverà delle morse? È così, Tra l'altro noi ci facciamo una bellissima puntata di dietrologia videoludica con Burigana. Burigana non c'era, perché lui ci scrisse quella, proprio per quella puntata, diventammo amici proprio per quella puntata lì, insomma. Quindi va bene. Per fare a Marcord. Ma chi ci sa, cioè, questo come tanti altri, perché quello è un periodo proprio dove i doppiaggi erano tutti così, terribili poi, alcuni terribili. Eppure io c'ero affezionato uguale, perché... E comunque il gioco era doppiato in italiano. Ricordiamo uno degli ultimi fatti in questo modo, cioè The Witcher. No, per me, allora, infatti, a me questa cosa mi ha un po' distorto la cosa, perché The Witcher, il primo, che tra l'altro ci sono messo tanto per giocare, perché Marco diceva giocalo, no, ma io non so, per me è difficile quella. Poi in realtà me lo so sparato tutto, me lo so finito tutto, e la voce di Geralt è talmente brutta. Perché lui parlava tutto così e basta, c'era solo un che alla fine io, per me la voce di Geralt era quella. Cioè, quando poi ho visto Geralt in inglese che parlava in un'altra maniera, non è lui. Lo so. Perché proprio l'imprinting. Il climax, perché ormai tu te lo sei costruito in quel modo, quindi non può cambiare. Sì, ma poi era bello che lui diceva cose drammatiche, provava a trombassene una, parlava sempre nella stessa maniera. Purtroppo tuo figlio è morto. Esatto. Però potremmo fare sesso. Esatto. Così, capito? No, però lui ti ricordi che scivolava alla fine della frase. Un po' come Ligabue, sì, è vero. Esatto. E vabbè, comunque dai, doppiaggi brutti, no? Io ne sono sparati tanti perché giocavo tanto all'epoca, quindi... Vabbè, comunque ragazzi, era per chiudere la serata a Marcord, dai, con un po' di bei ricordi dei tempi che furono. Ti metto un sottofondo, un tappetino che ci accompagna verso l'uscita. Verso l'underposto. Sì, per andare dove è andato il ragazzo, soprattutto, che è sempre per tornare alle citazioni bellissime. Tra l'altro oggi Luca S. ha messo un meme, insomma, cioè, insomma delle immagini che ci hanno ricordato il Star Trek 5 rotta verso la Terra, dove c'è ovviamente il grande 4, Simone 4. 4, scusa, dove c'è il grande Montgomery Scott, insomma, che prova a interagire con il computer, prima gli parla, poi gli danno il mouse. No, ma sì, scusa, ma però la citazione era di un'altra cosa. Sì, però a me mi piace ricordare quella scena lì, che è bellissima, che proprio mi è sempre rimasta impressa e ogni volta la ricito sempre, perché è di quel film, alla fine forse è la cosa più geniale, no? E tu ci pensi, computer, no, gli danno il mouse, lui parla al mouse, computer, dice no, bisogna usare la tastiera, lui si scricchiola le mani, la tastiera, pittoresco, e poi lui usa questa tastiera in una velocità incredibile, come se per lui fosse normale usare la tastiera, ma come? Sì, dici che è pittoresco questa cosa, che va a studiare a scuola, capito? Nei libri di scuola. Vedete che loro, cioè, vede che loro nel futuro erano talmente più intelligenti che ti programmi. Anche Luca ci ricorda, vabbè, giusto per chiudere il cerchio, che la citazione era riferita al fatto che l'alluminio trasparente che avevano teorizzato in Star Trek 4 è stato scoperto adesso, è stato inventato più che scoperto in questi ultimi tempi, insomma. Sarà un caso, secondo te? Non lo so. Va bene, allora io ringrazio Walter, e che così ringrazio anche l'ospite. Ringrazio Cisco 2 per averci portato un brano. Che brano. Inedito, e che ci farà arrestare tutti, ma soprattutto quando vorrai, se ti va qualche volta, puoi insomma sempre tornare qui a Popcorn e parleremo sempre delle solite stronzate. Guarda, se mi offrono una birra vengo volentieri. Nice. Che ci vuole? Basta poco che ci vuole. E io ringrazio e saluto Marco Gualdi, vi ricordo, ciao Marco. Ciao. Vi ricordo che domani sera c'è questo speciale di Runtime Radio su runtimeradio.it, dedicato ovviamente a un po' un'analisi, un racconto generale di quello che è stata questa esperienza della seconda edizione del Festival della Canzone Artificiale, soprattutto vista anche da parte di alcuni giudici, da parte insomma di noi organizzatori e le idee. Mi raccomando, passa il brano vincitore. Soprattutto i tre brani vincitori passeremo. Ok, buonanotte a tutti. Ciao.